Venerdì l'attuale gerente gestore del Centro Mattei, un consorzio di cooperative, ha ricevuto la notizia dell'imminente chiusura del centro, un provvedimento della prefettura che appunto prevedeva svuotamento del centro entro venerdì 14 giugno, perciò in una settimana, il trasferimento della maggior parte degli ospiti, circa 160, a Caltanissetta, mentre donne, nuclei e chi ha già ricevuto esito positivo per la protezione internazionale sarebbe trasferito in regione, in Emilia Romagna. È partita subito una forte preoccupazione e agitazione sia per le 183 persone ospitate in questo momento all'interno del centro, che si sarebbero viste sradicate dall'altra parte d'Italia, e anche per tutte le persone che lavorano all'interno della struttura, 35 operatori più altre persone che lavorano lì dentro. La notizia arriva improvvisa, senza nessuna anticipazione, non c'era neanche il sentore di una cosa simile, tant'è che era già pronto, cioè era già in corso un nuovo bando per la trasformazione dell'hub in CAS, perciò è stato proprio, come dicevamo stamattina, un fulmine a ciel sereno. Certo, questo e poi quanto è successo. Certo, e poi da questa mattina, quando vi eravate sentiti all'interno di Radical Pop con Alessandro, poi c'è stato sia un incontro in prefettura, sia dopo un incontro con la giunta in consiglio comunale, ti chiederei come sono andati. Esatto, stamattina avevamo convocato un presidio davanti alla prefettura perché si doveva svolgere questo incontro tra l'ente gestore e la prefettura per capire un po' come avrebbero voluto organizzare o come vogliono organizzare questi trasferimenti. L'incontro è stato annullato, noi abbiamo mantenuto il presidio e siamo state ricevute da uno dei vicari del prefetto, a cui abbiamo portato le nostre preoccupazioni. Lì risposte non ce ne sono state e neanche aperture. L'indicazione, ci sto ribadito, è arrivata direttamente dal Ministero dell'Interno e la prefettura non ha l'intenzione di mediare tra il territorio e perciò noi lavoratori, la struttura, gli ospiti e tutti e il Ministero. Da lì abbiamo chiesto un tavolo aperto a tutte le istituzioni coinvolte e non solo, perciò al comune, all'ente gestore, ai lavoratori, ai sindacati e con la prefettura. Non c'è stata una grande apertura, ci hanno detto che sarebbero state portate le nostre preoccupazioni e le nostre osservazioni al Ministero dell'Interno e di inviare richiesta formale per l'apertura di questo tavolo. Da lì ci siamo spostati poi in consiglio comunale perché da quanto sapevamo l'amministrazione non era stata avvertita, ha preso tutto da noi quando abbiamo avuto la notizia e il giorno dopo dai giornali, mentre in prefettura ci dicevano che comunque il dialogo era aperto con l'amministrazione. Siamo andati in consiglio comunale dove sono stati presentati diversi ordini del giorno sulla situazione del Mattei e lì ci ha ricevuto l'assessore Lombardo, l'assessore al lavoro, mentre l'assessore welfare, che ha fatto un comunicato stampa, non era presente. E loro hanno manifestato disponibilità e apertura, ci hanno detto che l'amministrazione ha richiesto alla prefettura un tavolo di confronto perché appunto anche la comunicazione era stata gestita anche con loro abbastanza male, possiamo dire. L'assessore ci ha detto che uno tra i due domani sarà presente all'assemblea cittadina che abbiamo lanciato e che aspettiamo risposta dalla prefettura per quanto riguarda i tavoli di confronto. Più o meno questa è la situazione, perciò siamo in attesa sia dall'amministrazione ma soprattutto dalla prefettura. Sì, certo. Intanto ti chiederei anche appunto l'orario, l'appuntamento per l'assemblea pubblica di domani e un po' quali saranno appunto i prossimi passi, diciamo, da prendere, e anche restando così invece le cose, quindi se non ci fosse un'apertura dalla prefettura, quale potrebbe essere l'azione del comune per evitare, diciamo, un trasferimento, la chiusura nell'arco di pochissimi giorni? Allora, domani l'assemblea pubblica e cittadina si terrà alle 18:30 in Piazza del Nettuno davanti alla Sala Borsa. perché crediamo sia necessario un coinvolgimento della città tutta, perché questo provvedimento, questa improvvisa chiusura non tocca solo gli ospiti, i beneficiari che sono al Centro Mattei e noi lavoratori, ma crediamo che tocchi appunto la città tutta. Dall'altra parte il primo punto che noi continuiamo a chiedere e domani ribadiremo è il blocco del trasferimento in Sicilia di queste persone che vedrebbero interrotto il loro percorso qua, dovrebbero lasciare la città che vivono e in cui vivono per trasferirsi all'altra parte d'Italia. Abbiamo, stiamo impostando anche delle alternative, il fatto che i lavori di ristrutturazione possano essere fatti con le persone all'interno, organizzandoci, o che comunque se l'urgenza e i lavori dovessero essere più imponenti, spostare, trasferire tutte queste persone, ma facendole rimanere sul territorio. E in questo abbiamo chiesto anche una forte presa di posizione da parte dell'amministrazione. Perciò se non ci dovesse arrivare un'apertura dalla prefettura, ci aspettiamo che l'amministrazione della città di Bologna apra altre alternative per permettere a queste persone di rimanere in questa città e continuare la loro vita qui. Questo è. Invece sul versante lavorativo l'assessore ha mostrato anche la sua disponibilità ad aprire un tavolo per i lavoratori che molto probabilmente vedranno perderanno il posto di lavoro se la situazione non cambia. Sì, lavoratori a cui forse va ricordato appunto nell'ambito di un nuovo bando che sarebbe stato pochissimi giorni dopo l'annuncio della chiusura che c'è stata adesso, comunque veniva garantita la continuità lavorativa, diciamo. Ma alla maggior parte sì, no, chiaramente il consorzio delle cooperative che attualmente gestisce il Centro Mattei ha partecipato al bando non sapendo se l'assegnazione futura toccasse a noi, diciamo, questo ne siamo tutti consapevoli, però comunque progettando una continuità lavorativa e una continuità di servizio, perché è da anni che quel consorzio gestisce il Centro Mattei, non era detto che avrebbe continuato a farlo, però un'improvvisa interruzione così da un momento all'altro, perché eravamo appunto pronti, era in fase di valutazione le offerte che sono arrivate per il bando che vedeva la trasformazione dell'Hub Mattei in un CAS, cioè è ancora più grave, più inspiegabile e non capiamo come fino a 4 giorni fa l'Hub poteva diventare un CAS e perciò tutte le persone potevano rimanere all'interno e da un momento all'altro non si può più fare, perché questo ci sta detto la prefettura.